Bejt jo pjatë saje, zemë në ule tu. Se të samë me në ke, Abë baje hoj, balin gjero që, ku mu bëtëra, në që së vërre, betës kësëra, në kuar betë na, i e lëngi mëte, bete gjatë alë, po kërë së botë, po vërë masin po, po vërë kënari së vërë në gëre, po vërë mashe të, anë të masin po, së taj së utakë, në kuar e rësë, largë së në, አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይያልን ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ከራዲዮን ዳሮሳ ጋር በመተባበር የምናቀርበው ልሳነ ሮማ ያማርኛና የጣሊያንኛ ፕሮግራም አሁን ጀመረን። ፕሮግራማችንን ለማዳመጥ በኤፍኤም 87.9 ላይ እንገኛለን። በድረ ገጽ በቀጥታ ለመከታተል ለምትፈልጉ www.ondarossa.8 በመግባት አስኮልታ የሚለው ላይ በመጫን መከታተል የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን፣ አስተያየት ለመስጠት ለምትፈልጉ 0649175 ላይ ደውሉልን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። Benvenuti all'Ascolta Radio Etiopia che va in onda sulla frequenza di Radio Onda Rossa ogni domenica alle ore 14. Buon ascolto a tutti. አድማጮቻችን ዛሬ እንግዲህ ከተሳካሁል አቮካቶ የጠበቃውንም ሌላ መንገድ አይዘነላችሁን ቀርባለን። በጣላይኛ ፕሮግራም ላይ ጓደኛችን ማርገሪታ እዚ አጠገባችን ትገኛለች። ስለዚህ ሷም በጣላይኛው በኩል ያለውን ትረዳናለች። እንግዲህ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። በ12 በዚ አርብ ለታ ጠዋት ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሲቲንግ በቲቮሊ በሚገኘው ፍርድ ቤት ፍለፊት ሲቲንግ ይደረጋል። ስለዚህ በአፊሌ ከተማ በተሰራው የግራሲያኒ መታሰቢያ ላይ በአቮካቶ ላይ በጠበቃ በከንቲባው ላይ የተመሰረተ ክስ አለ። በመስከረም ወር ላይ የመጀመሪያው ክስ ታይቶ ነበር። ስለዚህ በ12 ቀጠሮ ተይዟል። በፌብሩዋሪ 12 አርብ ማለት ነው፣ የፊታችን አርብ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሲቲንግ ዛውቲቦሊ በሚገኘው ፍርድ ቤት ይደረጋል። ጉዳዩ የሚታየው 11 ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ባበሻ አቆጣጠር 5 ሰዓት ላይ ይሆናል። ስለዚህ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የተወሰኑ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። በዚህ በኩል ማርገሪታ እንግዲህ አንዳንድ ነገር ትለናለች። Ed allora buongiorno a tutte e a tutti, siamo all'ascolto della trasmissione in amarico che va in onda ogni domenica e tra poco, sempre per quanto riguarda la tutta la vicenda riguardo alla richiesta di rimozione del monumento a Rodolfo Graziani, le denunce nei confronti del sindaco di Affile che l'ha autorizzato e poi le denunce nei confronti dei compagni che hanno scritto 2-3 frasi di libertà su questo monumento, il processo ancora continua. Si celebrerà la seconda udienza, comunque l'udienza che si celebrerà questo mese avrà luogo il 12 febbraio del 2016 al Tribunale di Tivoli. Nello stesso tempo il Consiglio regionale della Giunta regionale della Toscana sostiene l'appello per la rimozione del mausoleo promosso dal Comitato Comitato Provinciale Ampi di Pisa, e in questa cornice con le ultime notizie riguardo queste vicende ci sarà un collegamento telefonico con l'avvocato appunto che sarà presente al processo nel Tribunale di Tivoli. Cura tenore, cura tenore, cura. Pronto? Mi sento. Buongiorno. Allora, noi siamo in diretta da Radio Onda Rossa e stiamo parlando con l'avvocato Ricci e volevamo praticamente sapere che cosa si discuterà nell'udienza del 12 febbraio presso il Tribunale di Tivoli e che come si è conclusa l'udienza precedente, insomma, che aria tira, per quanto si può dire, nei giorni precedenti un'udienza, ecco. Ma guardi, allora il processo riguarda l'apologia di fascismo nei confronti del sindaco e di due assessori del comune di Affile che hanno, ad avviso della procura e ad avviso dell'ANPI, poi naturalmente ci sarà il giudice che deciderà, fatto apologia di fascismo nel dedicare il mausoleo del soldato al generale Rodolfo Graziani. Generale Rodolfo Graziani che durante il periodo del fascismo è stato prima un generale che ha gravemente colpito l'Etiopia con la guerra coloniale attraverso i gas e quant'altro, per il quale il generale Graziani ha avuto anche un procedimento penale per crimini di guerra che poi si è concluso però con la prescrizione. Mentre è stato condannato per collaborazionismo con il tedesco, con i nazisti, perché lui ha svolto un'attività di collaborazione dopo l'armistizio con le forze naziste di occupazione del territorio italiano. Quindi, dato che il comune di Affile è il luogo di nascita del generale Graziani, il sindaco di destra e gli assessori sono stati, diciamo, portatori di questa iniziativa che è stata anche valorizzata molto sulla stampa e sugli organi di informazione. Noi abbiamo fatto una denuncia come Associazione Partigiani d'Italia per appunto il reato di apologia di fascismo, abbiamo avuto diciamo credito presso la Procura della Repubblica di Tivoli che ha fissato l'udienza per discutere di questo reato nei confronti di questi tre amministratori pubblici. Il processo si è già svolto un'udienza del processo nella quale l'ANPI si è costituita parte civile e il giudice monocratico di Tivoli ha ammesso la costituzione, per cui il 12 si dovrebbe discutere il processo e si dovrebbe arrivare a una sentenza presumibilmente, però questo non è detto perché dipende da tanti fattori tra cui gli impegni del giudice e comunque questo sarà un processo che porterà via parecchio tempo, quindi non è detto che si concluda il 12. Comunque il giudice è chiamato a giudicare se nel comportamento degli imputati si ravvisi o meno il reato di apologia di fascismo. Questo è il tema. A proposito di valorizzazione del gesto, come l'ha definita lei, gesto della dedica del monumento al soldato a uno dei peggio soldati che potevano prendere. Qual è invece la valorizzazione per quanto riguarda gli organi di stampa di questo processo? O meglio, siete sommersi di telefonate che vi chiedono che cosa succede da parte di tanti giornali oppure c'è silenzio? Ma diciamo che molti giornali sono interessati al processo. Ci hanno chiesto, molti si sono rivolti direttamente all'ANPI e noi abbiamo dato queste informazioni perché in questa fase ovviamente siamo in una fase in cui la decisione spetta comunque a un giudice, il quale ovviamente ha ampia facoltà di decidere secondo la propria discrezione. Insomma, noi naturalmente siamo confidenti che gli amministratori vengano condannati, però questa naturalmente è una posizione di parte che dovrà passare al vaglio della valutazione del giudice che giudicherà su questo processo. su questa indagine. Sicuramente. Noi vabbè, nel frattempo abbiamo visto che la Giunta Regionale Toscana invece ha approvato una mozione in cui che vuole rafforzare la richiesta della rimozione del monumento, richiesta posta a questo Presidente della Repubblica, visto che quello precedente non aveva risposto nulla. Questa cosa potrebbe diciamo aiutare non chiaramente lo svolgimento del processo, che è una cosa indipendente, ma magari una consapevolezza maggiore di quello che è successo e della gravità di questo gesto. Beh, certo, diciamo che così come è concepito il monumento al soldato, diciamo, è una forma quasi affettica di celebrazione del soldato in quanto tale. Purtroppo nell'attività di realizzazione di questo monumento e soprattutto nella fase della inaugurazione è emerso in maniera assolutamente chiara che il soldato in realtà era il generale Graziani, che è stato condannato per collaborazionismo. Il problema del collaborazionismo è un problema molto delicato in questo processo, cosa che io discuterò, adesso non voglio anticipare neanche la mia discussione. E noi non chiediamo di farlo. Ammesso che si discuterà il 12, perché può anche essere che ci sia un rinvio, adesso dovremo valutarlo la mattina, insomma. Certo. Comunque c'è questo profilo legato al collaborazionismo, no? Mm-hmm. Cioè, nel senso che la cosa importante che i soldati ritenuti come forze legittimamente belligeranti non sono quelli che fanno riferimento alla Repubblica di Salò, perché i combattenti della Repubblica di Salò, i cosiddetti repubblichini, non hanno mai avuto il riconoscimento di forze legittimamente belligeranti, perché non hanno mai svolto attività di guerra nei confronti, non so, degli inglesi piuttosto che degli americani, piuttosto che di altre forze, francesi, inglesi e quant'altro. Hanno solo svolto attività di repressione dei partigiani, quindi interno e al servizio e agli ordini diretti dei tedeschi, dei nazisti, che peraltro li avevano fermati, questi gruppi di combattenti, in Germania direttamente, nella maggior parte, insomma. Ho capito, e quindi diciamo il processo avrà questa prenderà anche questa piega. Prenderà anche questa piega, certamente. Per quanto riguarda, è una piega importante, tra l'altro. Sì, anche se diciamo che è tanta l'amnesia generale, che questi discorsi sembrano discorsi lontanissimi, mentre in realtà storicamente è passato poco tempo, anche se insomma è passato poco tempo, e noi facciamo come ANPI, perché io sono anche un componente del Comitato Nazionale dell'ANPI, facciamo queste battaglie anche perché la memoria di queste vicende non si perda, insomma. Certo, io non so se Mulu vuole fare un'altra domanda oppure possiamo lasciarle la parola se lei vuole raccontarci qualcos'altro. Infatti io non c'ho nessuna domanda, però spero sarà a 12 ultimo udienza, il mio cuore diceva, però se fosse ultimo quel giorno, che sarà dopo? Beh, naturalmente quello che sarà dopo dipenderà molto dalla decisione del giudice. Cioè, se il giudice riterrà sussistente l'apologia di fascismo e quindi condannerà per questo gli imputati, chiaro che questo sarà un momento importante anche proprio per quel ragionamento che faceva lei sulla memoria e sul ricordo di questi momenti. Perché poi, appunto, quello che si dimentica è che dietro a queste vicende ci sono le storie di tantissime persone. Io sono un conoscitore anche della storia delle guerre coloniali che ha fatto l'Italia durante il fascismo, degli interventi che ha fatto il generale Graziani, e quindi ritengo che una pubblicità su queste cose qua, nel caso in cui ci sia una sentenza di condanna, è chiaro che sarà importante. Se ci sarà una sentenza di assoluzione, a parte che io penso che sia noi che la procura proporremo appello, ritengo, comunque si vedrà, insomma, si valuteranno anche le motivazioni. Quindi, diciamo, sono d'accordo con lei, la memoria ormai è lontana di questi fatti, ma questi fatti sono stati comunque importanti per la storia di questo nostro paese, quindi bisogna assolutamente che nessuno perda la voglia e la determinazione a perseguirli fino in fondo, insomma, questo è il tema. Certo, anche se diciamo la questione dell'armistizio crea diversi problemi proprio di consapevolezza di che cosa significa essere un giorno alleati di qualcuno e il giorno dopo nemici di qualcun altro. Cioè il problema è lo so, cioè, certo. E la guerra è brutta per questo, perché sì, qui non si è trattato di guerra, perché a un certo punto gli italiani hanno capito di avere fatto un'alleanza con una nazione che è quella che è. Sappiamo bene quali siano stati i crimini enormi del nazismo, di Hitler, della Germania, sulla quale peraltro la stessa Germania ha fatto, sia pure con grande difficoltà, un lavoro di valutazione, di riconoscimento dei propri errori, quindi insomma con un procedimento anche complesso, articolato, strutturato. Paradossalmente noi non abbiamo fatto lo stesso tipo di lavoro e queste cose qui io credo che siano importanti per poterci concedere di poter fare questo tipo di valutazioni, perché io sento spesso parlare nel nostro paese di fascismo, di destra, da parte soprattutto anche di molti giovani che non sanno neanche che cosa sia stato, perché non hanno né cultura né conoscenza di quello che è stato veramente il fascismo. Sì, oppure ce l'hanno e significa che culturalmente dobbiamo fare i conti con questa realtà e combatterla, insomma, con ogni mezzo necessario, certo, possibile. Certo, certamente, perché c'è anche tutte le cose. Sì, insomma. C'è anche questo. Tutte le cose. Va benissimo, io la ringrazio molto e speriamo di sentirci dopo il 12, cioè nel pomeriggio 12. Del 12, per sapere com'è andata questa udienza. Grazie avvocato, grazie, arrivederci. L'avventura imperialista iniziò il 3 ottobre 1935, quando le truppe italiane penetrarono in Etiopia. 500.000 soldati appoggiati da artiglieria pesante attaccarono tribù locali male armate. La resistenza fu tenace, ma inutile. Per ogni italiano ucciso morivano 10 etiopi. Pochi abissini avevano mai visto o combattuto un carro armato. Molti furono uccisi mentre si difendevano tirando pietre. Grazie alla supremazia totale nei cieli, gli aerei italiani potevano bombardare indiscriminatamente. La carneficina fra gli etiopi fu spaventosa. Ciononostante, l'avanzata italiana era ancora troppo lenta per Mussolini, che decise allora di nominare un comandante più giovane ed aggressivo. Nuovo comandante in capo delle forze armate italiane divenne il maresciallo Pietro Badoglio, a cui Mussolini ordinò di conquistare Addis Abeba prima della stagione delle piogge. Per questo Badoglio elaborò una nuova e più letale offensiva. In aperta violazione del protocollo di Ginevra del 1926 che l'Italia aveva sottoscritto, fu dato ordine alle truppe italiane di utilizzare gas tossici contro gli etiopi. L'iprite veniva usata per riempire recipienti che venivano poi lanciati come bombe o sparati come granate, oppure veniva spruzzata dall'alto come insetticida. Una nuova ondata di terrore venne scatenata contro una popolazione completamente impreparata. L'iprite fu usata in grosse bombe di 280 kg lanciate dagli aerei. L'iprite è un liquido pesante, se la bomba era lanciata correttamente esplodeva in aria a 200 metri dal suolo. In questa area la morte era sicura. Le gocce di itrite penetravano attraverso i vestiti fino alla pelle, bruciando e disintegrando i tessuti umani. Gli abissini erano totalmente impreparati a questo tipo di attacchi, né tantomeno conoscevano alcun metodo per curare i feriti. La guerra chimica in Etiopia era stata preparata su larga scala prima, con decine di tonnellate di gas per l'uso da parte della fanteria, con decine di migliaia di granate di artiglieria caricate a gas e con centinaia di tonnellate di bombe a iprite per l'aviazione. Badoglio trovò questo apparato pronto e lo usò prima ancora di avere l'ordine esplicito di Mussolini. Mussolini diede l'autorizzazione il 28 dicembre del 35, un'autorizzazione esplicita all'impiego anche su vasta scala di qualunque gas di lanciafiamme. Badoglio rispose: già adoperato iprite, se presenterassi occasione adopererò lanciafiamme. Rivale di Badoglio e comandante in capo delle forze italiane sul fronte meridionale era il generale Rodolfo Graziani. Noto come il macellaio di Libia, Graziani ordinò non solo l'uso di gas tossici su larga scala, ma anche di gettare dagli aerei i ribelli catturati. 5 giorni dopo, aerei italiani portarono a compimento la prima di 19 incursioni contro ospedali da campo della Croce Rossa Internazionale, ritenuta la responsabile della circolazione delle informazioni all'estero sull'uso italiano dei gas benefici. Il primo e più grave attacco alle tende della Croce Rossa, dicembre 1935, nella regione di Gogurù, sul fronte sud. Molte bombe, infatti, caddero sull'ospedale con una strage, 29 morti e 50. Il dominio italiano in Etiopia sembrò al riparo da ulteriori resistenze sino al pomeriggio del 19 febbraio 1937. Rodolfo Graziani, il nuovo viceré d'Etiopia, aveva invitato la nobiltà etiope nel suo palazzo di Addis Abeba per celebrare la nascita del principe di Napoli. Centinaia di poveri e contadini storpi vennero invitati per ricevere dal viceré una piccola elemosina. A mezzogiorno, mentre Graziani si trovava in piedi sulla scalinata del palazzo, 2 eritrei che si erano mischiati alla folla decisero di ribellarsi al brutale dominio italiano. Sanguinante per le diverse ferite riportate, Graziani venne trasportato d'urgenza all'ospedale. Il medico ungherese dottor Ladislav Sava ha scritto un vivido resoconto di quanto avvenuto dopo l'attentato dinamitardo. Gli italiani iniziarono a sparare non appena si resero conto che le esplosioni erano finite. Il primo a sparare fu Cortese, che con la sua pistola aprì il fuoco sul gruppo dei dignitari etiopi. I carabinieri seguirono il suo esempio. Dopo pochi istanti c'erano già più di 300 morti nel cortile e intorno al palazzo. Quasi nessun etiope riuscì a fuggire vivo dal cortile. Il massacro qui fu particolarmente ripugnante e insensato, se si considera che le persone che si trovavano nel cortile erano vecchi, invalidi, ciechi, mendicanti, storpi e povere madri con bambini piccoli. Gli italiani persero completamente la testa. Dal momento dell'attentato, squadracce di camicie nere armate di fucili, accette e mazze si aggirano per le strade, uccidendo tutti i nativi in cui si imbattono, incluse le donne, lasciandosi andare ad atti di brutalità sconvolgente. Molti abissini a cui è stata bruciata la capanna sono stati uccisi mentre cercavano di fuggire o sono stati costretti a morire fra le fiamme. Era dal massacro degli armeni che non vedevo una tale dimostrazione di incontrollata brutalità e vigliaccheria. Ci sono state esecuzioni di massa, gruppi di 50 o 100 persone, in tutte le zone della città. Poveri sventurati che in nessun modo potevano avere a che fare con l'attentato. I militari italiani si facevano spesso fotografare di fronte alle forche, oppure tenendo per i capelli le teste mozzate degli etiopi, che brandivano come trofei di caccia. Si trattava di un esibizionismo brutale, quanto spietato, che vedeva la tanto decantata superiorità italica sfociare in una crudele barbarie. አድማጮቻችን እያዳመጣችሁት ያላችሁት ፕሮግራም እንግዲህ በጣሊያንኛና በአማርኛ ያዘጋጀነው ነው። በዚህ በአርብ ዕለት በቲቦሊ በሚገኘው ፍርድ ቤት እንግዲህ ሁለተኛው እና የመጨረሻው እንዲሆን የምንመኘው የከንቲባው ክስ አለ። እንግዲህ እንደምታውቁት ግራሲያኒ በፈጸመው የጦርነት ወንጀል የተቀጣው ነገር የለም። ስለዚህ ውጣ ወረዱ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን ያው በዚህ በጣሊያን ህግና ደንብ መሰረት ደግሞ ከፋሽስቶች ጋር አብሮ ቆሞ በመዋጋቱ በዛ ለዘጠኝ ዓመት የተፈረደበት ሲሆን የተወሰነውን ጊዜ ብቻ ነበረ እንግዲህ ፍርዱን ጠብቆ የወጣው። ስለዚህ የካቲት 12ን ኢትዮጵያዊ ሆኖ የሚዘነጋ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ የካቲት 12ን ስናስብ ስንትና ስንት ወገኖቻችን በአንድ ጊዜ እንደ ሞቱ ነው። እንግዲህ በጣሊያንኛ እንኳን አሁን እንደሰማችሁት በዛች እንኳን ደቂቃ ወደ 300 ሰው ነው እንግዲህ በጥይት የተገደለው። ከዛ ውጪ በየቤቱ እየሄዱ በእሳት በቁማቸው ያቃጠሏቸው ሰዎች ሁሉ እንዳሉ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ከባድና የከፋ እንደነበር ሁላችንም እናስታውሳለን። ስለዚህ ይሄንን ፍርድ ሁላችንም እንጠብቃለን። ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነት ሰው የሚገባ ሁኔታ የለም። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ምንም እንኳ ወታደር ቢሆንም በሀገራችን በሊቢያና በተለያዩ ቦታዎች በጣም ብዙ ሕዝብን በግፍ የፈጸመና የጨፈጨፈ ወንጀለኛ ነው ብለን ነው እንግዲህ እኛም የምንከራከረው። እንግዲህ ጊዜ ያላችሁና ሁኔታው ያላችሁ በቦታው እንድትገኙና ሁኔታውን አብረን እንድናይ ነው። ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ነው እንግዲህ የሚከናወነው። ሲቲንግ አለ እዛው ፍርድ ቤቱ ፊት ለፊት 9 ሰዓት ጀምሮ ማለት 3 ሰዓት በአበሻ 11 ሰዓት ላይ ደግሞ ወይም 5 ሰዓት በአበሻ አቆጣጠር ፍርድ ቤቱ እንግዲህ የመጀመሪያ የሁለተኛውና የመጨረሻ አሁን የሚሆንበትን ሁኔታ እናያለን። እንግዲህ አብራችሁ እዛ እንድትገኙ ነው የምንጋብዛችሁ። Ed allora, quello che abbiamo sentito è l'audio di un video che racconta quello che accade, appunto, come gli ascoltatori e le ascoltatrici che comprendono l'italiano avranno sentito benissimo, raccontano quando per festeggiare la nascita del Fio del Re di Napoli vengono invitati tantissimi povere mendicanti e storpi come si usava tra i monarchi in quel tempo. C'è un attentato dimostrativo per dire basta con l'invasione italiana e c'è quella che nella nostra amata lingua si chiama una carneficina senza fine. Dopodiché le cose insomma continuano ad andare malissimo per la popolazione etiope invasa dall'esercito italiano e Addis Abeba viene conquistata il 5 maggio del 1936. Nello stesso anno però, nonostante quello che pensava Benito Mussolini, che viene definito dai suoi esegeti un grande statista, lui pensava che questa invasione venisse non acclamata ma comunque con un tacito consenso. Nel 1936 la Società delle Nazioni, anzi nel novembre del 1935, la Società delle Nazioni condanna l'Italia perché è invasore di un altro paese e decreta delle sanzioni economiche e vieta all'Italia la vendita di beni di interesse militare. Tutto questo insomma per ricordarci quando diciamo di appartenere alla popolazione italiana, che c'è anche questo da parte dei nostri antenati, e che per fortuna ognuno ha diritto di scegliere la propria vita e di non ripercorrere le stesse azioni, non diciamo dando il consenso a azioni simili. Ma se torniamo a quello che sta succedendo adesso, è interessante vedere il dibattito, anche per pochi minuti, all'interno del Consiglio regionale della Toscana, cosa due o tre consiglieri dicono quando il Consiglio regionale della Toscana dice sì, approviamo la mozione per la rimozione del monumento e chiediamo anche noi che il Presidente della Repubblica prenda una posizione in questo senso. Allora, leggiamo questo da un sito che si chiama gonews.it, che si occupa della Toscana, che dice che il 26 gennaio ha approvato a maggioranza una mozione che impegna la giunta regionale a sostenere l'appello per la rimozione del mausoleo dedicato al maresciallo Rodolfo Graziani ad Affile, promosso dal comitato provinciale Ampi di Pisa. L'atto viene presentato da una decina di consiglieri del PD. Con questo atto la giunta si impegna a fare appello al Presidente della Repubblica affinché siano adottati i provvedimenti necessari per la rimozione del manufatto, che costituisce un'offesa permanente alla coscienza democratica del popolo italiano, e ad attivarsi nei confronti di governo e Parlamento perché si intraprendano le iniziative di legge atte a impedire che altri monumenti, altri sacrari o pubbliche vie o piazze vengano intestate a personalità condannate per gravi reati contro lo Stato e implicate in crimini perpetrati durante il periodo fascista. La mozione viene illustrata da Alessandra Nardini, che dice che Graziani è stato inserito nell'ONU nella lista dei criminali di guerra e che tra l'altro condannato per collaborazionismo, apologia del fascismo, e che è tra i firmatari del manifesto sulla razza. Dobbiamo intervenire quindi dalla sanzione in Italia, appunto, di tutta la segregazione e persecuzione per le persone che seguono la religione ebraica. Dobbiamo investire nel tenere viva la memoria, ha detto la consigliera, e questo va fatto lottando contro i totalitarismi, quindi una posizione abbastanza moderata. Ma la cosa interessante è vedere quello che viene detto da chi ha votato contro o anche da chi ha votato a favore. Un rappresentante di Fratelli d'Italia interviene per dire che, pur essendo semplice dire che questo argomento non interessa il Consiglio regionale della Toscana, visto che si parla di un paese vicino a Roma, si dichiara comunque contrario alla mozione, perché Graziani è stato prima di tutto un eroe della Prima Guerra Mondiale, pluridecorato, mai condannato per crimini di guerra. La richiesta di abbattere il monumento nasce da una visione ignorante e strabica. E questo ancora può essere affermato senza che nessuno ti dica che dovresti non studiare la storia perché chiedere troppo, ma leggerti le cronache dell'epoca e dire che cosa ne pensi di una persona che, contrariamente ai patti che il governo che lui dice di servire ha firmato, butta un gas tossico su una popolazione inerme, perché insomma questo è successo anche questo, al di là del fatto che le guerre di invasione non sono cose belle, cioè la guerra non è un atto umano del quale andare fieri, la guerra di invasione prima tra queste. Dopodiché abbiamo un consigliere della Lega Nord ed è poi interessante pensare che si dica che questa cosa non interessa il Consiglio regionale della Toscana, visto che si parla di un paese vicino a Roma. Anche la Toscana è vicino a Roma e tutte e due stanno in Italia, ma sarebbe forse anche questo troppo chiedere, insomma, delle nozioni di semplice geograficità. Invece un deputato della Lega Nord osserva che, dato la storia la scrive chi vince, spetterà alle prossime generazioni di storici stabilire chi è nel giusto, ma ha annunciato l'indisponibilità del suo gruppo a votare perché il Consiglio regionale della Toscana non deve occuparsi di questioni che riguardano un mausoleo dalle parti di Roma. Quindi ancora una volta non puoi pensare, in Germania che hanno i Land c'è un modo di dire che dice: guarda, passato il confine sei un cretino, perché siccome ci sono varie istituzioni scolastiche, cioè da una parte e dall'altra non vengono riconosciute, quindi la tua cultura dipende da dove sei fisicamente. Poi c'è un altro della Lega Nord che è ancora meglio del primo, che dice: non parteciperò al voto perché per noi la storia va raccontata tutta, e comunque abbattere un monumento è negativo perché è uno strumento per ricordare quello che è accaduto senza una posizione. Poi c'è chi vota favore, dice di annuncia il suo voto favorevole, perché le cose non si devono stigmatizzare, perché c'è insomma bisogno di memoria. E un altro della Naga Nord dice che non partecipa al voto perché la storia va diffusa, divulgata, qualunque storia sia. Ma la storia è una scienza, quello che dice uno storico deve essere provato, non puoi divulgare qualunque cosa. E poi è interessante anche quello che dice un deputato del Movimento 5 Stelle, che dice che il suo voto sarà favorevole, che però bisogna fare molta attenzione a non essere ipocriti. Abbiamo recentemente partecipato a conflitti usando uranio impoverito, ha detto il consigliere, stiamo appoggiando regimi criminali, i gas tossici li respiriamo nelle nostre città, quindi dobbiamo riflettere. E poi l'ultimo, insomma, che leggiamo dalla fonte dell'ufficio stampa del Consiglio regionale della Toscana, un altro di Forza Italia osserva che questo è un dibattito di cui si sentiva il bisogno per combattere l'antipolitica e sarebbe una battuta. Gli unici toscani contenti di come abbiamo impiegato il tempo questa mattina saranno i rappresentanti dell'ANPI di Pisa, perché un'invasione l'invasione dell'Etiopia è un problema che o discute lo Stato, ma loro evidentemente non se ne sentono parte, ma la gente viene divisa appunto, gli piacerebbe, in quella che è una divisione etnica, i toscani, i pisani, i fiorentini, quelli di Frosinone, i romani, così insomma ognuno è bello nella sua identità. Quindi gli unici toscani contenti di come abbiamo impiegato il tempo di questa mattina saranno i rappresentanti dell'ANPI di Pisa, sarebbe il caso di smettere di occuparsi di questa roba stantia e affrontare i problemi veri. E insomma, questa insomma è una testimonianza di quello che si può dire quando si viene eletti e si parla di politica internazionale anche passata e della posizione che nei confronti del fascismo hanno purtroppo, anche se insomma non ci stupiamo di questo, i rappresentanti di quelle forme di quei partiti che abbiamo prima citati, partiti che appunto usano gli strumenti democratici per poi continuare a dire delle cose che in teoria non dovrebbero dire, ma la politica italiana è piena insomma di trasformismo e di alleanze abbastanza bizzarre, chiamiamole così, perché stiamo parlando di una cosa più leggermente diversa che le questioni di politica interna. አድማጮቻችን እያዳመጣችሁት ያላችሁት የአማርኛና የጣሊያንኛ ፕሮግራም ነው። አስተያየት ካላችሁ 0649175750 ላይ እንገኛለን። አብራችሁን በድጋሚ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። Oggi 9 maggio viene suggellato il destino dell'Etiopia. Italia ha finalmente il suo impero! In questo momento ci troviamo proprio nei depositi dell'Archivio Centrale dello Stato. Qui ci sono anche le carte di Rodolfo Graziani, il generale che ha contribuito alla vittoria del regime fascista nella guerra d'Etiopia. Il sagrario è stato fatto per dare il giusto riconoscimento a un personaggio storico che ti affronta. Quando le catamaie Rodolfo Graziani mettasse a Park West, gli tesserabbeton che farò in giuccan August Sassraulet, Tulet Sassraulet. Dalla sua storia coloniale fino alla Repubblica Sociale è dimostrato che Graziani è un eroe. Graziani promised to subjugate Ethiopia. That's why the mustard gas, killing people in many ways, hanging them. That was organized by Graziani, and very openly. All his instructions were in writing. They can be seen today. Graziani is a war criminal! Ecco, mi senti? Mi senti? Sì, ecco, chiaro, però sì. C'è anche mia amica Margherita. Pronto? Non ti sente. Mi senti adesso? Adesso sì. Ecco, c'è la mia amica Margherita qua insieme a me, perché abbiamo fatto intervista a avvocato Ricci, conosci di Ampi, perché okay, sarà processo 12 febbraio e poi dopo c'è questo documentario. Che dici sulla 12 anche 13, diciamo? Quale sarà il vostro evento? Anche cosa pensi 12 febbraio anche? Sì. Puoi cominciare a raccontare. Sei okay. In diretta. Buongiorno anche a te. Ok, buongiorno. Sì, allora, il 13 febbraio è un'iniziativa che abbiamo pensato di organizzare a Subiaco, che insomma partiva dal bisogno che sentivamo di dover comunque far conoscere anche nella zona in cui, diciamo, c'è stato questo, lo chiamerei quasi un delitto, insomma, questa costruzione del mausoleo, che a fine, insomma, è proprio a 10 minuti da Subiaco. E quindi avevamo appunto il bisogno di dover far conoscere questo documentario nella nostra zona, e ho pensato appunto di creare questa iniziativa per il 13 febbraio, che si svolgerà in un programma molto semplice, quindi ci sarà una proiezione del documentario di Valerio. E a seguire, insomma, ci sarà un dibattito, saranno presenti alcune personalità quali Carmelo della comunità etiopi e insomma vari altri, anche se riusciremo anche un collegamento Skype con il regista, che purtroppo, cioè purtroppo per fortuna per lui, si trova a New York adesso. E dopodiché faremo insomma della selezione musicale con una Insomma, il film al quale lui si sta riferendo è un documentario che è stato proiettato alla Casa della Cultura qui a Roma, e che però insomma avremo il piacere di vedere più in là appunto in Italia. Il regista è un italo-americano. Il documentario si chiama Se fossi stato quel guerriero ed è un lungometraggio di un regista che si chiama Italo Valerio Ciriaci. Questo documentario è girato tra l'Italia, l'Etiopia e gli Stati Uniti e ripercorre attraverso delle testimonianze dirette, analisi storiche, filmati e fotografie d'archivio inedite o d'epoca. Uno dei capitoli, dice la presentazione, più controversi della storia coloniale italiana. Cioè, uno dei capitoli della storia coloniale italiana, controverso in un'invasione c'è ben poco, però insomma questa è la polemica che a volte esce fuori. I crimini di guerra commessi dalle truppe fasciste durante l'invasione e la successiva occupazione dell'Etiopia nel 1935. Il regista, appunto, Valerio Ciriaci, nel 2012 desidera approfondire la rabbia e lo scalpore che si diffondono nelle comunità etiopi nel mondo alla notizia che il comune di Affile, provincia di Roma, dedicava un monumento al gerarca fascista Rodolfo Graziani. E quindi questo documentario, che è If Only I Were That Warrior, è stato presentato in anteprima al Festival dei Popoli di Firenze e poi alle ore 21 sempre è stato presentato. E poi insomma noi siamo forse di nuovo in collegamento telefonico con chi ci stava parlando, e quindi gli lasciamo la parola riguardo quello che avverrà a Subiaco il 13 febbraio. Eccoci di nuovo. Eccoci. Sì. Allora, appunto, eravamo arrivati alla giornata che avete organizzato per ricordare ancora questa cosa, e che poi vorrete proiettare stralci del documentario? Vorremmo proiettare tutto il documentario, sì. Ah, bravissimi. E quindi, insomma, se ci vuoi dire esattamente l'ora, la via, anche per darlo come notizia, appunto, che Radio Onda Rossa diffonde, visto che non è una cosa da poco. Certo. Sì, allora, il giorno, come abbiamo detto, è sabato 13 febbraio. L'iniziativa comincerà attorno alle 17.30, alle 18, insomma. E praticamente la via è la parallela di Corso Cesare Battisti, quindi appena entrati a Subiaco venendo da Roma, sulla destra troverete un bel bar, insomma, della vecchia stazione. Dietro questo bar appunto ci sono questi locali che sono utilizzati solitamente dall'ANFAS che abbiamo chiesto, insomma, per l'iniziativa. Va bene. E quindi e che, come dicevo appunto, insomma, prima era il fatto di voler proprio creare questa cosa e fare in modo che, insomma, il dibattito non si spegnesse anche, insomma, alla fine del processo, che chissà come andrà a finire, insomma, che anche quello, insomma, è un bel dubbio, perché poi, voglio dire, l'apologia di fascismo è anche una cosa che non se ne sente tutti i giorni, insomma, no? Sì. Che qualcuno ne venga accusato, quindi se ciò succedesse sarebbe veramente, sì, una vittoria enorme, ma insomma... Sì, culturalmente avrebbe un grosso significato, ecco. Sì, assolutamente, sperando chiaramente che vada bene così, però insomma abbiamo i nostri dubbi. Detto ciò, insomma, il nostro bisogno era appunto che non si terminasse appunto il dibattito su questa vicenda e su tutto ciò che è connesso, tutte le tematiche che sono connesse a questo, quindi proprio il documentario forse è uno strumento molto importante che possiamo utilizzare per questa cosa, proprio perché sia diciamo parte, quindi il suo focus principale partendo appunto dalla vicenda di Affile, della costruzione del mausoleo, che è un discorso anche che oltre che a livello nazionale, anche nel nostro territorio, nel nostro piccolo territorio, comunque è un discorso un po' difficile da affrontare, proprio per la difficoltà di entrare in determinate discussioni con i cittadini, insomma. Quindi farebbe bene sia questo e sia oltretutto chiaramente riparlare un po' di quel colonialismo storico che, insomma, che ci siamo abbastanza dimenticati. Va benissimo, e allora noi ti ringraziamo. Ok, grazie per Paolo, grazie di cuore e speriamo andrà tutto bene 12 a 13 anche. Assolutamente. Grazie, speriamo. Grazie. Grazie mille. Grazie anche a te. Buona giornata anche a te, ciao. Buona giornata. አድማጮቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከመጣናቀቃችን በፊት ሁለት ፕሮግራሞች ይኖራሉ በ12 እና በ13 እንደውም በ19ም አለን የሰማዕታትን ቀን መታሰቢያ በማድረግ እዚሁ ሮማ ከተማ ይደረጋል ፕሮግራሙንና ጠቅላላ ሁኔታውን በሚቀጥለው ሳምንት ሁሉን ነገር አስተካክለን ይዘን እንቀርባለን እዚሁ ሮማ ከተማ ነው የሚደረጋው እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ በ12 ቲቦሊ ፍርድ ቤት ፍለፊት ነው እንግዲህ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሲቲንግ አለ 11 ሰዓት ላይ የፍርዱ ሁኔታ ይሰማል ስለዚህ በተስፋና በጉጉት የምንጠብቀው ስለሆነ እንግዲህ ጊዜና ሁኔታ ያላችሁ በዛ እንድትገኙ ነው ሌላው ደግሞ በ13 የሚከናወነው ፕሮግራም If Only I Were That Warrior የሚለው ዶክመንታሪ ፊልም በጣሊያንኛ ያው ወጣት የተዘጋጀው ቫሌሪዮ ቺቻርቺ ቺራ ቺራቺ የተዘጋጀው ዶክመንታሪ ፊልም ነው እንግዲህ ከ2012 ጀምሮ የተዘጋጀ ነው ያሉትን ሁኔታዎች በመከታተል ይህ ዶክመንታሪ ፊልም በኢትዮጵያ በዚህ በጣሊያንና በአሜሪካን አዙሪያ በዚህ በሮዶልፎ ግራሲያኒ በተሰራው ሐውልት አማካኝነት የተደረጉትን አውሞ ሰልፎችንና በዛ በወቅቱ የተደረጉ ጦርነቶችን ሁኔታዎችን የሚያመለክቱ ዝግጅቶች ናቸው ይህ ፊልም በዚህ በጣሊያን አገር በተደረገው ፌስቲቫል በተለይም ፍሬንሴ ላይ አንደኛ የሆነ ነው በአንደኝነት የተመዘገበ ነው እንዲሁም በኒውዮርክ ከተማ ላይ በዚሁ ቢግ ስካይ በሚለው ምርጫ የተደረገለት ዶክመንተሪ ፊልም ነው። ስለዚህ if only I were that warrior ትንሽ በዩቲዩብ ላይ በየቦታው ተለጥፎላችኋል፣ ያንን ማየት ይቻላል። በዚህ ደግሞ በሮማ ከተማዎች እንግዲህ በተከታታይ ይታያሉ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በማጆ እዚሁ ሮማ ከተማ ውስጥ በሰፊው ይታያል። እኛም ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠናቀቃለን። መልካም ቆይታና መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። ከሰኞ ጀምሮ ደግሞ መልካም የስራ ጊዜ። የአርቡን እንግዲህ ከጠዋቱ ጀምሮ ያለውን ፕሮግራም አብራችሁን እንድትሆኑ የአገር ጉዳይ ነውና የአገር ሁኔታ ነውና አብራችሁ ጊዜ ያላችሁና ሁኔታ ያላችሁ የሚመቻችላችሁ በቦታው ተገኝታችሁ ሁኔታውን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። E quindi noi vi comunicheremo quando questo documentario sarà possibile vederlo qui, speriamo, oltre quella visione che c'è stata alla Casa della Cultura, che però insomma non ha potuto esaudire il desiderio di tutti e tutte quelle che lo volevano vedere. Noi speriamo presto, speriamo di poterlo diffondere, e quindi un saluto a tutti e a tutte da questa voce, e rimanete all'ascolto di Onda Rossa sugli 87.9. I'm not the one.